avrei la tua mano, ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. Farei scoprire il più bel tempo della primavera. Farei scoprire il più bel tempo della prima.